Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Tra le 100 Italian Energy Stories raccolte da Fondazione Simbola in occasione della conferenza di Parigi sul clima c'era anche Calbat, uno spin-off dell'Università della Calabria fondato dal professor Gregorio Cappuccino e da Francesco Amoroso, che anche lui ex ricercatore sempre dell'Ateneo Calabrese. Calbat ha sviluppato un processo di ricarica per batterie innovativo che permette di risparmiare energia elettrica. Il tema dell'accumulo dell'energia elettrica oggi è molto presente nel settore della logistica, dove apparecchi come per esempio i carrelli elevatori e altri sistemi sono spesso elettrici, ma è destinato a diventare cruciale in vista da un lato della diffusione dei veicoli elettrici e dall'altro per via dell'aumento del contributo al mix energetico delle fonti rinnovabili come sole e vento. Dato che queste fonti non sono programmabili, è necessario accumulare energia durante i momenti di abbondanza per poi averla a disposizione quando invece sole e vento appunto scarseggiano. Ma diamo il benvenuto al nostro ospite, Gregorio Cappuccino, professore dell'Università della Calabria e amministratore delegato di Calbat. Buonasera Cappuccino. Buonasera dottor Melis, buonasera anche ai radioascoltatori. Allora Cappuccino, io direi partiamo dalle basi, e cioè ci sono delle perdite quando si carica una batteria elettrica. Ecco, che cosa sono dovute queste perdite? Penso sia una cosa che abbiamo sperimentato tutti e lo sperimentiamo ogni giorno, quando ad esempio ricarichiamo un telefono cellulare o uno smartphone, perché sia il caricabatterie sia la batteria stessa riscaldano. Dal punto di vista energetico questo significa che parte dell'energia che si sta prelevando dalla rete in realtà, anziché finire in batteria, si sta disperdendo nell'ambiente sotto forma di calore. Perfetto. E quell'energia che noi stiamo prelevando dalla rete è comunque energia che noi paghiamo. Quello che succede nei sistemi di accumulo o quello che succede durante la ricarica di un veicolo elettrico di qualsivoglia dimensione è esattamente lo stesso. C'è una parte che è quello che volgarmente prima abbiamo chiamato il caricabatteria, diciamo, che in questi sistemi andrebbe chiamato in realtà un convertitore, la CDC, sì, che nella parte di potenza, proprio perché attraversato da corrente, riscalda. Stessa identica cosa per via invece del comportamento elettrico della batteria avviene appunto nell'accumulatore. Il problema qual è? Entrambi i sistemi si comportano in maniera differente al variare della corrente di carica, per cui alcuni valori che potrebbero essere ottimali per ridurre queste perdite nelle batterie non lo sono invece per il caricabatterie. Ecco, e tanto per capirsi, quanta energia tra l'uno e l'altro viene dispersa in un processo di ricarica abitualmente? Si perde dal 5% nelle migliori delle condizioni, ma si arriva a perdere, ahimè, fino al 40% in alcune... Nelle condizioni peggiori, d'accordo, quindi una roba assolutamente significativa. Ecco, che cosa fa di speciale a questo punto il vostro sistema di ricarica per riuscire a ridurre queste perdite e in generale per contenere i costi? È in grado proprio di individuare qual è il regime di carica migliore, quindi la corrente di carica migliore. Ideale, potremmo dire, no? Per una certa batteria? Ideale per una certa coppia, la cosa importante è per una certa accoppiata. Perfetto. Convertitore e batterie, questo che lo rende così innovativo. Tra l'altro questo punto di funzionamento ideale è un punto difficilissimo da determinare perché dipende da tutte le condizioni operative, quindi cambia continuamente, non basta conoscere benissimo il sistema, ma è importante conoscere tutte le altre condizioni al contorno, che sono chiaramente mutevoli durante il normale funzionamento. Come la temperatura, per esempio, piuttosto che cos'altro? Lo stato di carica. Okay. È la cosa che rende questa cosa che influisce di più. Perfetto. E la rende così difficilmente prevedibile. Quindi mano a mano che si carica la batteria bisogna cambiare l'energia elettrica che gli si fornisce, bisogna andargli dietro in qualche modo, ed è questa una delle vostre caratteristiche. A proposito di economics, quanto si può risparmiare? Allora, se ragioniamo in termini puramente di perdite, il guadagno, noi riusciamo a recuperare fino al 15% dell'energia. Della quantità di energia inizialmente sprecata. Questo 15% dal punto di vista economico, viene associato anche, ad esempio, al ridurre i picchi di potenza, può comportare un risparmio economico, un vantaggio economico notevole. Che quindi ancora sarà più marcato, sopra il 15%. Ancora più marcato del 15%. A che punto siete di questo vostro progetto? Allora, siamo in via di certificazione per quello che è il Nomosor, che sarà il primo prodotto a catalogo, destinato proprio per applicazioni sia di logistica, come accennava lei, ma anche per i sistemi di storage di taglia residenziale e di taglia industriale. Insomma, siete vicini ad andare sul mercato. E allora, Cappuccino, in bocca al lupo. Oh, grazie Crepi, in bocca al lupo a tutti. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.